Cari fratelli e sorelle, tra la fine del IV secolo e l'inizio del V, un altro padre della Chiesa dopo Sant'Ambrogio contribuì decisamente alla diffusione e al consolidamento del cristianesimo nell'Italia settentrionale. È San Massimo che incontriamo vescovo a Torino nel 398, un anno dopo la morte di Ambrogio. Ben poche sono le notizie su di lui. In compenso è giunta fino a noi una sua raccolta di circa 90 sermoni. Da essi emerge quel legame profondo e vitale del vescovo con la sua città, che attesta un punto di contatto evidente tra il ministero episcopale di Ambrogio e quello di Massimo. In quel tempo gravi tensioni turbavano l'ordinata convivenza civile. Massimo in questo contesto riuscì a coagulare il popolo cristiano attorno alla sua persona di pastore e di maestro. La città era minacciata da gruppi sparsi di barbari che, entrati dai valichi orientali, si spingevano fino alle Alpi occidentali. Per questo Torino era stabilmente presidiata da guarnigioni militari e diventava nei momenti critici il rifugio delle popolazioni in fuga dalle campagne e dai centri urbani sguarniti di protezione. Gli interventi di Massimo di fronte a questa situazione testimoniano l'impegno di reagire al degrado civile e alla disgregazione. Anche se resta difficile determinare la composizione sociale dei destinatari dei sermoni, pare che la predicazione di Massimo per superare il rischio della genericità si rivolgesse in modo specifico a un nucleo selezionato della comunità cristiana di Torino, costituito da ricchi proprietari terrieri che avevano i loro possedimenti nella campagna torinese e la casa in città. Fu una lucida scelta pastorale del vescovo che intravide in questo tipo di predicazione la via più efficace per mantenere e rinsaldare il proprio legame con il popolo. Per illustrare in tale prospettiva il ministero di Massimo nella sua città, vorrei addurre ad esempio i sermoni 17 e 18, dedicati a un tema sempre attuale, quello della ricchezza e della povertà nelle comunità cristiane. Anche in questo ambito la città era percorsa da gravi tensioni. Le ricchezze venivano accumulate e occultate. Uno non pensa al bisogno dell'altro, constata amaramente il vescovo nel suo 17° sermone. Infatti molti cristiani non solo non distribuiscono le cose proprie, ma rapinano anche quelle degli altri. Non solo, dico, raccogliendo i loro danari non li portano ai piedi degli apostoli, ma anche trascinano via dai piedi dei sacerdoti i loro fratelli che cercano aiuto. E conclude: nella nostra città ci sono molti ospiti o pellegrini. Fate ciò che avete promesso aderendo alla fede, perché non si dica anche a voi ciò che fu detto ad Anania. Non avete mentito agli uomini, ma a Dio. Nel sermone successivo, il 18°, Massimo stigmatizza forme ricorrenti di sciacallaggio sulle altrui ricchezze, disgrazie. Dimmi, cristiano, così il vescovo apostrofa i suoi fedeli, dimmi perché hai preso la preda abbandonata dai predoni? Perché hai introdotto nella tua casa un guadagno, come pensi tu stesso, sbranato e contaminato? Ma forse, prosegue, tu dici di avere comperato e per questo pensi di evitare l'accusa di avarizia. Ma non è in questo modo che si può fare corrispondere la compera alla vendita. È una buona cosa comperare, ma in tempo di pace ciò che si vende liberamente, non durante un saccheggio ciò che è stato rapinato. Agisce dunque da cristiano e da cittadino chi compera per restituire. Senza darlo troppo a vedere, Massimo giunge così a predicare una relazione profonda tra i doveri del cristiano e quelli del cittadino. Ai suoi occhi vivere la vita cristiana significa anche assumere gli impegni civili. Viceversa, ogni cristiano che, pur potendo vivere col suo lavoro, cattura la preda altrui col furore delle fiere, che insidia il suo vicino, che ogni giorno tenta di rosicchiare i confini altrui, di impadronirsi dei prodotti, non gli appare neanche più simile alla volpe che sgozza le galline, ma al lupo che si avventa sui porci. Rispetto al prudente atteggiamento di difesa assunto da Ambrogio per giustificare la sua famosa iniziativa di riscattare i prigionieri di guerra, emergono chiaramente i mutamenti storici intervenuti nel rapporto tra il vescovo e le istituzioni cittadine. Sostenuto ormai da una legislazione che sollecitava i cristiani a redimere i prigionieri, Massimo, nel crollo delle autorità civili dell'Impero romano, si sentiva pienamente autorizzato ad esercitare in tale senso un vero e proprio potere di controllo sulla città. Questo potere sarebbe poi diventato sempre più ampio ed efficace, fino a supplire la latitanza dei magistrati e delle istituzioni civili. In questo contesto Massimo non solo si adopera per rinfocolare nei fedeli l'amore tradizionale verso la patria cittadina, ma proclama anche il preciso dovere di far fronte agli oneri fiscali, per quanto gravosi e sgraditi essi possano apparire. Insomma, il tono e la sostanza dei sermoni suppongono una cresciuta consapevolezza della responsabilità politica del vescovo nelle specifiche circostanze storiche. Egli è la vedetta collocata nella città. Chi mai sono queste vedette, si chiede infatti Massimo nel sermone 92, se non i beatissimi vescovi che, collocati, per così dire, su un'elevata rocca di sapienza per la difesa dei popoli, vedono da lontano i mali che sopraggiungono? E nel sermone 89 il vescovo di Torino illustra ai fedeli i suoi compiti, avvalendosi di un paragone singolare tra la funzione episcopale e quella delle api. Come l'ape, egli dice, i vescovi osservano la castità del corpo, porgono il cibo della vita celeste, usano il pungiglione della legge. Sono puri per santificare, dolci per ristorare, severi per punire. Così San Massimo descrive il compito del vescovo nel suo tempo. In definitiva, l'analisi storica e letteraria dimostra una crescente consapevolezza della responsabilità politica dell'autorità ecclesiastica, in un contesto nel quale essa andava di fatto sostituendosi a quella civile. È infatti la linea di sviluppo del ministero del vescovo nell'Italia nord-occidentale, a partire da Eusebio, che come un monaco abitava la sua Vercelli, fino a Massimo di Torino, posto come sentinella sulla rocca più alta della città. È evidente che il contesto storico, culturale e sociale è oggi profondamente diverso. Il contesto odierno è piuttosto quello disegnato dal mio venerato predecessore, Papa Giovanni Paolo II, nell'esortazione post-sinodale Ecclesia in Europa, laddove egli offre un'articolata analisi delle sfide e dei segni di speranza per la Chiesa in Europa oggi. In ogni caso, a parte le mutate condizioni, restano sempre validi i doveri del credente verso la sua città e la sua patria. L'intreccio degli impegni dell'onesto cittadino con quelli del buon cristiano non è affatto tramontato. In conclusione vorrei ricordare ciò che dice la Costituzione pastorale Gaudium et Spes per illuminare uno dei più importanti aspetti dell'unità di vita del cristiano: la coerenza tra fede e comportamento, tra Vangelo e cultura. Il Concilio esorta i fedeli a compiere fedelmente i propri doveri, facendosi guidare dallo spirito del Vangelo. Sbagliano coloro che, sapendo che qui noi non abbiamo una cittadinanza stabile, ma che cerchiamo quella futura, pensano di poter per questo trascurare i propri doveri terreni, e non riflettono che invece proprio la fede li obbliga ancora di più a compierli, secondo la vocazione di ciascuno. Seguendo il magistero di San Massimo e di molti altri padri, facciamo nostro l'auspicio del Concilio, che sempre di più i fedeli siano desiderosi di esplicare tutte le loro attività terrene, unificando gli sforzi umani, domestici, professionali, scientifici e tecnici, in una sola sintesi vitale, insieme con i beni religiosi, sotto la cui altissima direzione tutto viene coordinato a gloria di Dio e così al bene dell'umanità.